Domandi, così la vedo la fotografia. Cazzo, dico 21 euro spese bene, cazzo non è pompente, lo sto utilizzando adesso. Ma funziona che è una meraviglia, mi guarda. È meglio così, meglio per te. Secondo momento me lo compare giù pure io. Vai sì, dammi. Ti fermo, se ce l'ho qua. Cazzo non ti ho qua, dopo nell'altro cellulare ti ho. Dopo me lo memorizzo e te lo mando. E vabbè, quando vai tempo non c'è problema, tanto sta caricando il cellulare mio. Quando arrivi, arrivi. Dopo gli hanno fatto il demo, di bastona magari. Magari un po' così da vedere, ma cazzo spinge una bomba, l'amplificatore me lo porta, non si bolza nulla, con la ventola eppure. Sì, già ho capito di quali deve essere. Cazzo, ma bello però, cioè, ma praticamente un po' così davanti c'è, però cazzo è una bomba, io lo sto utilizzando, e va che è una cannonata, va. Sì, meglio così. E anche il mio è bellino l'alimentatore, hai visto? Sì, sì, sì. Quanto pompa quello? 30 ampere. Sì, sì, sì. Anche questo da 30 ampere, ma cazzo, per 20 euro si può comprarne, cioè per... dico. E se credo che si può comprare. Può durare magari il doppio. Sino lo dico, buro. Questi costano, sono buoni ma costano. Gianno è maro pure che su caggio compara due, non ti preoccupare, vengo che è pompente. Infatti, conviene più uno di chi si che fai tu. Cappa. Non andava bene, cazzo andava bene che l'apparecchio andette. Infatti. Vabbè, Antuda, io ti lascio che devo fare cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo alle prossime, dai. A Natale, dai, ci sentiamo. Adesso ti metto e te lo mando, ok? E cara cara. Dico che è veramente bello. Sì, già ne avevo uno, mi sembra, da 10 ampere mi sembra che ce l'avevo io. Solo che mi faceva il difetto della ventola, si sentiva troppo la ventola. Poi io l'ho messo giù, si sente? Non penso che si senta. Io l'ho messo giù e va che una cannonata va. Sì, un po' già si sente la ventola. Sono ventole rumorose. C'è anche senza ventola da 20 ampere, lo sai. Oh, di quelli tradizionali, da. No, sempre così, switching, ma penso ho qualche ventolina più silenziosa. Allora ho detto comunque che senza ventola, sempre dei cinesi, da muraglia l'ho preso. Sì, bisogna andare a vedere la situazione. Gappa. C'hanno anche i baufen, quelli, le 8, cosa cazzo è. Belle. C'è un po' di roba, dai. Sì, ho capito. Gappa. Ok, Natali, dai, ce la risentiamo. Ciao, ciao, buona domenica, saluta in casa. Sì, ti saluta Sara pure. Gappa, senti. Sì, saluta anche la Concetta, anche se non la conosce, ma prima o poi già ci vediamo, dai. Se non si vede, ma accendiamo la ruzzi, Antu. No, nessuna ruzzi. Vabbè, ricambia saluti anche mia moglie che è tornata da dove era, là. Ci sentiamo alle prossime. Che Natali, dai, ci sentiamo. Che avanti, che vuole entrare. Un palo bianco per me, dai. Cuffia! E qua! Eia, va bene, va bene. Muy bien, ma in campugna, sì. Ma ci sei più da tua madre? Che sapevo che eri qua. E cosa stai usando adesso? Non è la macchina del pico. Non sei andato ancora a pigliartino, cazzo. Oh, Giulia. Chi c'era poi qua? Antonio. Ciao. Il bianco per me, dai, ce la risentiamo dopo, che io devo fare una cosa, devo fare, dai. Chi è l'altro amico che c'è giù? L'amico che sento più basso. Vedi, lo senti Antonio? Va bene, io già ti sento già. Cosa ha detto? Ha detto che tu devi più posciomare dentro delle fumette antenna. Digliela tu. E vai, fini, la zona di due a forse, che io non so come posciomare. Digliela tu, mi faccio un'antenna della serie, io mi divino. Beh, a confronto come esce lui, sì, ma io non sono messo male, perché io lì a ottava arrivo 9:10 arrivo, cioè, è lui che ha messo un po' in questioni precarie, non io. Io non ne ho problemi. Ok, dai, continuate, non è un'offesa, attenzione, non è un'offesa. Ho detto solo che io non posso essere messo male, cioè, logicamente forse sei tu un po' più in difficoltà. Guarda, io ti do un consiglio, mettiti la Boomerang, che qualità e prezzo è una delle migliori. No, non ce n'è. Qualità e prezzo, cioè, come antenna piccolina, è una che esce meglio di tutte. Sì, ho messo già la piccolare. Adesso mettiti la Boomerang. Ma non ce l'hai un terrazzino dove metterla? Allora ti puoi fare una cosa del genere, scusa, siamo in un terrazzino. Puoi farti anche un palo ascensore, è una comodità, non devi tirare sopra tubo, canne e tutto. Come faccio io quando è caro, non hai visto? Tiro su, tiro giù, capite in un attimo. Puoi mettere anche un palo di 6 metri, leggero, ci bisogna mettere un tubo innocenti, anche un palo leggero, che tanto i tiranti al limite li attacchi nel carrellino e si mettono in tiro da soli. L'antenna già leggera, metti un palo di 4 metri, 5 metri, se puoi anche di più, fisso, a garrucco, questo l'ho fatto io, un tubo dritto al nastro e tiri su e tiri giù. Se no devi stare con un tubo telescopico da 6 metri, solo che capita, ogni volta tirarla, tira su, tiene il pezzo a vita, tira sull'altro a vita, e invece con questo sistema una carrucola in cima e sei a posto. Ti puoi prendere anche una canna da 8 metri, senza bisogno neanche di prendere quella roba là, perché quella là è pesantuccia comunque, perché è tutta piena, capito? Ti prendi una canna da 8 metri, ti prepara l'antenna e ti fai e fai quel sistema lì. In effetti è meglio. Sì, quella da mettere fissa, infatti, che l'avevo tutta riempita a schiuma. Sempre che, appunto, riesce a salire sul tetto. Cambierà la pelle, dice, dove che vedi a salire quella roba lì? Era scempio! Se vuoi parlare in casa ti potevi toglierla, capito? Perché ormai manco più la concessione, esiste più. Sì. Però qualità prezzo, la Boomerang quella grande parlo, qualità prezzo è la migliore, cioè, anche tu andi a comprare un roccio di cubro, lo paghi 50 euro e non è la matessi cosa, non vale a nulla, Cioè, vale quello che vale, vale. La mia oggi va bene, però non è, non è dopo queste grandi performance. Cioè, vai a comprare una boomerang e dici, voce, cioè, la verità. Cioè, te cambia dal giorno alla notte. Ma, sinceramente, non l'ho mai, mai avuta. Ho avuto la Mantova e poi questa qua che faccio io. Sinceramente, non ho mai avuto la boomerang. Né boomerang, né Grand Prix, né... mai queste antenne qua. Buongiorno. Buongiorno anche a te, Claudio. Io sono convinto al 100% che se tu lì metti una Mantova non cambia assolutamente niente. Capito tu? Te l'ho già spiegato, la posizione è quella che devi prendere, perché quell'antenna lì, è un'antenna che funziona benissimo, capito? Benissimo. Solito dire benissimo, benissimo. Se io quell'antenna la metto qua, esco con quella alla Mantova. Ciao Luca, dipende sempre dalla posizione, capito? Vai bene dentro Sassari con i tuoi vicini e fuori chiaramente il segnale basso, perché la posizione che hai non ti permette di andare più di quello, secondo me. Poi tu puoi fare mille prove. Sì, vabbè, se hai fatto il lavoro la metà centrotetto migliora un po' di più, è sicuro e migliora un po' di più, però è sempre la posizione che ho che no, non va bene. Ma lo so perché ne sono consapevole, perché infatti la stessa da un'altra posizione, grazie, con la boomerang che ci avevo io, escono molto, molto, molto, molto più forti di me, escono. E come si spiega? È la posizione bassa. Se te l'ho già spiegato, ma tu... tu c'hai quell'idea, io avrei lasciato tutto così, tanto siete tutti a nulla, ti sentono da tutte le parti, anche se ti sentono basso, fuori Sassari, dentro Sassari, arrivo bene da tutte le parti, voi siete una futti. Guarda Gianni Brofetta, se Gianni Brofetta mi arrivi 9 più 20 con 6 watt, con quella bomba, però ce l'ha sul petto, la posizione migliore della tua, e così è. Sempre posizione, tu immaginati che Luca Fipper col dipolo mi arriva, quanto mi arriva Tore con l'antenna grande, cioè vedi tu, ciao Luca. Ciao K. E K, la posizione, è la posizione che ho, no io c'ho sul tetto, ce l'ho sempre, ce l'ho sul tetto, però se, cioè, se tu vieni a casa mia, se guardi, io sono con 30 rubocio gioco, cioè, a confronto, cioè, scendi da Piazza Colonna Mariani, dietro c'è largo infermeria San Pietro lì, se tu guardi, io sono dentro il fosso, sono proprio a confronto agli altri, capito già, ho capito, mi sono intreppato, e per quello, anzi, con questo ha migliorato ancora di più, con la boomera era un pochettino più bassa magari, però puntava a Roma stessi, è la verità. Va bene, va bene, va bene, non solo decidi, non ti preoccupare, non lo so, ecco perché ti sto dicendo. Devi per fare un buon lavoro rimettere sopra il tetto, ecco il tetto, e tirare su almeno di 5-6 metri di palo. Ben messa, è un'antenna come Cristiani, ma va bene anche quella. Purtroppo la posizione che comanda, non va. Va bene, va bene. Adesso si è attaccato, sì. Sì, una bocchina, dai. Break, fatto il break. Buonasera a tutti, Gianfranco. Claudio, ti posso chiedere un attimino la tua consulenza sul canale 5, un attimino? Sì, sì, vai, vai, un attimino mi sposto al 5. Ok, grazie, scusate. Ok. Ehi, dunque, al centro tetto lo dovrei mettere. Vabbè, un giorno mettiamo le gaffe e metto qualche antenna più forte. Ma poi pure questa, amici, tu la pongo al centro tetto va un po' di più. Il problema è che c'è corrente anche su un cazzo di goccio, ma comunque ho alzato un po' di più il palo e pompa adesso. Sì, ma devi sollevare tu. Devi sollevare, capito? Solleva, solleva. Metti le staffe e fai il lavoro definitivo, capito? Ci mettiva la linea, antenna e basta che sollevi. A vento, ma al vento sta... No, per appena ce n'è qua. Chi vi dirà il vento, Cazzo, io sono convinto se l'avevi avuto in piazza a notte che pompava la voce, perché lì è una zona molto aperta, Lì telescopico, se non puoi mettere niente di pesante, capito, tanto con l'antenna già leggera. E capa, anzi, adesso che l'ho alzata mi hanno migliorato, anche le apparecchiature funzionano meglio. E chi prima va via alternati e cose, non mi biazia. Adesso che l'ho salita va che è una cannonata, va. Vedi, se la sollevi va ancora meglio. Capito? Ma guarda, va, ruba con un abbezzo. Tu, ruba con un abbezzo, vai. Io? Sì, sono tutto un cucù, sembra il gatto che abbia la finestra aperta, sembra. Ma sono morto, l'aperto. Mia gasino. Aspetta che passo l'amplificazione. Sembra scarica, sì, un po'. C'è qualcosa che no, che no, non va bene, cioè. A scariche? Sono, sì, più a scariche, perché adesso si è basso basso l'amplificazione. Prima di tutto sembrava che ci sia, che c'era un vento, il vento c'era, capito? Così dici? Sembra ci sia il vento. Io così dico. Vabbè, quando attacco, quando c'è il compressore inserito. Aspetta, guarda adesso, se si sente di meno. Appena appena. Ok, dai. Adesso ti devo lasciare, ti devo. Devo scendere giù a preparare un po' qualcosa. Che dopo si mangia. Ok. E poi nel frattempo mi guardo anche la cosa, mi guardo la Formula 1 pure. Bravo, va bene, dai. C'è bisogno per preparare l'estate, saldare qualcosa, fammelo sapere. E le possiamo anche costruire le staffe. C'è problema, non c'è problema. Adesso per quest'anno mi sa che rimane così. Non ha più gana la sta in Nanto. Un'altra gubbiciuria. Per quest'anno rimane così, il prossimo anno vediamo di fare un lavoro serio. Va bene, ok. A disposizione. Ciao a tu. Ma finché funziona la facciamo andare, tanto il televisore mi ha acceso, manco lo disturbo, manco alta potenza, manco balle balle, cioè funziona che una meraviglia, funziona. Quello è importante, che si inizia a disturbare qualcuno, la buon casino. Qua non faccio nessun TVI, con questa ancora, con l'altra un pochettino, con l'altra, con la boomerang, poco, ma quando era più bassa, poi con la balzata non lo faceva più, con questa, Mi sembra che quella lì, perché non c'è neanche il radiale, giusto? Sì, cappa. Ok, va bene, allora ci sentiamo più tardi, senti. Ok, dai. Claudio è andato sul canale 5, è andato. Adesso sicuramente ritornerà fra un pochino. Ok, allora dai, ce la risentiamo, io scendo giù, dai. Metto a preparare e mi guardo la Formula 1. Ciao, più tardi, ciao. G7, Luca, Antonio. Luca. Ehi, Cla, io sono sceso giù un attimino. Stavo preparando, stavo. Sono sceso giù un attimino, ti ho sentito parlare, sono risalito. Dimmi. Io no, che sei prepara, perché sono qua in stanza, sto facendo due cosette, ma non è che ne abbiamo tabuglia per essere fatti. Sono mal di schiena, ho preso la bustina. Adesso ci vorrà una settimana prima che mi passi sta mal di schiena, che sono allucinato. Sì, rubrimo freddo, rubati, Cla. Sì, vabbè, io non posso fare determinati sforzi, mi sono messo a fare un sacco di spostamenti, scrivanie, balle varie, ho portato roba su, capito? Radio, amplificatore abbastanza pesanti, quindi sicuramente è quello. Ho cambiato l'antenna, la protezione dell'antenna, tirata su, insomma, ho fatto un po' di servizi, cose che non devo fare. Sì, vabbè, alla fine l'hai fatto, ma passate un tempo l'hai fatto. Lo so, passare il tempo quello dovevo fare, perché è un casino qua. Ma se veramente adesso è tutto in ordine, però non lo bucio tanto, fa male subito la schiena, come sto inchinato poi sotto la scrivania, sotto la base, facciamo i cavi, togliamo i cavi, è un casino, vabbè vai. Rimango quanto, vai, fai quello che devi fare, già sono qua, ok? Sì, capo, da adesso scendo giù e faccio quello che devo fare, se no è un macchio. Oh, qua c'è caldo, è la verità. Stamattina c'era un po' di freschetto, ho chiuso tutto, ha già teso un po' il burrito, perché qua scalda subito, e mi ha calato tutta la casa. No, già andrà bene, dai, dopo quando cucineggio vuoi ancora più cazzo. Eh beh, normale. Appa dai, vai vai cla. La mazza che tiene in varia. Oh via, vabbè dai, vai vai. E via, dopo. Appa dai, continuate. C'è qualcuno su 10? Un bello. Attenzione 10, c'è qualcuno? Eccoci a voi. Ciao Club. Sì, qua sono. Seduto, cercherò di fare qualche cosettina, ma te, ecco, ma non ne voglio la roba. Sono una bella schiena. Anche io sono un po' cucci. Non è che abbia dormito tanto bene, già dormo male di per sé, eppure oggi ero un po' stanco. Dovevo fare le 13, me ne vado in giro col campo. Beh, sta dicendo qua, ma di schiena. Di schiena, vabbè, ma mi viene ogni tanto, non è un problema, però siccome ne ho approfittato a fare i lavori qua a casa, sporcamente, balle varie, mi sono fottuto. Infatti, meno male, mi ha chiamato ieri, sono andato ieri da Gianni a prendere il pomellone dell'Inuit, mi ha dato anche il pannello nuovo, originale. Adesso domani porto la radio a Luca, mi faccio cambiare tutto. Ma Luca chi? Flipper? Sì, sì. Ma l'hai preso con gli occhi? Sì, sta meglio, piano piano già. La cura per fare non è vicino. Io l'ho avuta, capito, non me la giro curare, quindi bisogna dare il tempo, c'è la cura che devi fare, bisogna dare il tempo di che l'occhio si riprenda, capito? Allora, va bene, se ti fai la tua, se no gli davamo anche quella connessione, non ho fatto in tempo qua, a parte che ci bisogna tenerlo in due, perché viene male, sono talmente sottili quei cacchi di spinotti. No, già te lo fa, ma mi deve cambiare tutto il pannello intero, nuovo, poi ti mando la foto, in bustato, tutto il frontale del Noite, nuovo, l'ha procurato Gianni, capito? Me lo procurava, se ci voleva un po' di tempo, mi ha chiamato, sono salito, me l'ho preso, così, niente, adesso domani vado a Luca, me lo fa, esce nuovo come dalla fabbrica, ma nuovo, imbustato, col cambio canale nuovo, tutto il frontale nuovo, con tutte le sue scritte, tutto quello che avevo io, le scritte sono tutte salite, capito? Quindi lo vuole Luca, me lo fa nuovo. E niente, Roberto, siamo qua a casa. Che okay, ma c'è la Formula 1 o c'è? Non lo so, Roberto, non lo so, non lo seguo io. Né di Formula 1, né di motociclismo, niente. Un po' il calcio, quando c'è, basta, Roberto, capito? Ciao Roberto, buonasera. Buongiorno anzi. Ciao, ben sentito, ciao. Ma dai. Vecla. Antonio, sono descendendo a cucinare. Adesso metto un cuscino. Questa poltroncina, perché davvero mi fa male un po' la schiena. Quando mal di schiena è brutto, mettere. A me l'altro giorno c'avevo una specie di coso sciattico nella coscia, ti prende dietro, cazzo, ma un fastidio, un paio di giorni mi è durato, ma proprio, cazzo, ti sentivi dentro, le ossa, cazzo. Ma io non è lo sciattico, io ho una lombalgia di quelle allucinanti, capito? Quindi si è molto inchinato, ero sotto la base qua, facendo, tirando a cavo, poi ci ho levato roba pesante. C'è un amplificatore, quello grosso, che pesa una ventina di chili, figurati. L'ho tolto da Rovera, messo da un'altra parte, però l'ho dovuto sollevare, prendere in peso, quello sotto la scrivania, quella piccola dove ho messo adesso le radio, a passare tutti i cavi, gli alimentatori, sono fatto un po' di sforzo, sono fatto un bel inchinato, capito? Io non posso fare. Pilotato per avere la potenza massima. Mettiamolo qua, poi ci si scalda il cavo un pochettino, l'antenna. Cosa? Metterlo qua, a vedere se si scalda un po' l'antenna. Se si scalda? Sì, a tu. Vieni voi per scaldare l'antenna. Per scaldare le antenne ci vogliono 1 kW, no, 50 watt, no, o 80 watt, 100 watt. Ci vogliono 1 kW, capito? Molti kilowatt. Non lo so. Magari il capo parte per il primo, l'antenna no. Ci mangono il su grosso già a pompa. Su cosa? Il capo grosso. Ah, ma che pompa tu, cazzo, quello che capiva una cosa. Che non è che pompi di più, hai più ricezione. La radio lavora meglio, l'antenna lavora meglio, ma il segnale è sempre quello, mio Antu. Non è che cambiando il capo risolvi il problema, che il segnale sale di più, no? Non cambia assolutamente niente. Cambia che c'è più stabilità, meno QRM, la ricezione è molto più bella. Ma per cambiare il segnale devi sempre cambiare l'antenna o posizione dell'antenna. Questa è la legge, l'uomo. Già lo so, ho detto io si va da nodo muccio, si rimane a mezzo chilo fatto già si fa, il 58 si scioglie. A mezzo chilo fatto, boh, il 58 non è un cavolo, il 58 va bene come ce l'hai tu, 5 metri, 6 metri, quando inizi a averne 20 metri, 30 metri, è un cavolo che non serve a niente, capito? Cavolo non serve a niente, io manco spezzoni, c'ho le 58, io c'ho tutti spezzoni di H1000, anzi adesso è tutto diretto perché ho eliminato tutto, però anche gli spezzoni vogliono grossi, sto figurati, io dall'amplificatore alla radio HF c'ho il cavo che mi ha mandato la Kenwood del DL922, che i PL sono in vetro, alta temperatura in vetro, va più gonto. Lo so già, belli sono, in porcellana c'erano, tanti cosi, ma chi lì sono quelli più comuni. Io ho quelli un po' normali, cioè, ma già vanno bene lo stesso, però già, tanto io non ne uso tanta potenza, quindi già vanno bene lo stesso. Ok, dai, continuate che io scendo giù, dai, vado a fare quello che stavo facendo, dai. Ehi, sentiamo dopo, tu, dai, a dopo. Vai Roberto, non sei uscito quindi? Dopo adesso, magari adesso vediamo, dai, vado da mio padre e poi forse andiamo a fare un giro con mia figlia, vediamo un pochettino. La ragana che mi stavo dicendo, con quanto lo piaciono tu comunque, con quanto lo piloti tu lo Iaesu, quello equilineare? Lo Iaesu io lo piloto anche con 100 watt, perché c'è l'ingresso sino a 100 watt, però non li vedo mai, ne ho sempre 60, 50, capito? 50, 60 e P&P siamo intorno ai 700 watt con 50-60, con quasi 100 watt pieni, 90 diciamo, siamo intorno quasi a 1 kW. Ma c'è un limitatore d'ingresso, per dire, se tu gli dai sovrapotenza c'è un limitatore? No, assolutamente. L'ingresso della novità principale è 100 watt, poi se sono 120 chiaramente non è che va molto bene, bisogna tenersi sempre allo stadio d'ingresso, però io l'ho provato e quello l'MT, quello che ti va da te, della Magnum, lo strumento non l'ho creato io, erano 1 kW anziché metterlo a 2 e ho fischiato, cioè avevo la massima potenza, ho fischiato e ha fatto pum pum, è tornato indietro, quindi era sicuramente più di 1 kW. Quello tiene, le metti 3000, tiene, mi sembra 3000 watt. 3 kW, ma io ce l'avevo mischiato a 1000, hai capito? Ed è andato in cosa? Infatti no, l'hanno sostituito a posto, vuole soltanto, credo, taratto. Più o meno le indicazioni ce le ha, però, almeno non sui regolamenti, per la potenza l'ho parlato con Frignani, con l'ingegnere che l'ha costruito, mi ha detto come fare, come si fa per regolarlo. Le sonde ci vogliono per regolare quelle cose, sulla strumentazione, vabbè, non è che lo regoli vicino. Vuole taratto, vuole ultrasonde, è fatta una cosa fatta bene, perché altrimenti ti varia il segnale quando tu leggi sullo strumento. No, bellissimo, io ho trovato, perché tra l'altro non lo usavo, e poi un bel ragione, vedi di posto, prende, capito? Tutto qua. Io ho fatto un errore, anziché mettere una scala 2000, ce l'avevo a 1000, ho fischiato con il coso, con il 920, ho fischiato e mi ha crepato lo strumento, capito? Va bene. Sì, giornata brutta però, dice che piove, niente, ne sai tu. Se c'era qualche schizzata di acqua, è prevista, domani piove tutto, quasi tutto il giorno. Scusate, cosa? Cosa? No, sono andato, ho risposto un attimo alla mia figlia, le stavo dicendo cosa. C'è qualche dato su 10 qua. Niente, io ci ho ritratto adesso, sono andato a prendere l'acqua, due stronzate, dai. Sono passato all'ora di pranzo, dai, verso mezzogiorno, in piazza Fiume, c'era una specie di spettacolo perché stavamo suonando, ma era pieno di gente nei tavolini, dove c'era organizzato quel gruppo, i motociclisti, Harley Davidson, cosa così, era pieno di gente. Ma anche quello penso non si possa fare, non lo so. Non lo so, quello si chiama Cicchetto, Piazza Fiume. Ehi. Si organizza spesso queste cose, però il sabato lo fa solo, capito, una volta a settimana. Stavo dicendo di... No, ma era appena tutta la piazza, bellino, era simpatico perché c'era una bella giornata. Ieri oggi non sarebbe adatto, ma ieri era una bellissima giornata. Anche ieri sera poi ero fuori io, ieri notte, posso dire, ci stava bene. Sì, io sono andato a prendere mia figlia a lavoro ieri sera, c'era la piazza Italia che era piena di gente. Addirittura. E non ne dico uscire, Roberto. E ogni giorno, capito? E ogni giorno così lì. Ma è giusto che sia così, che cazzo stanno facendo un caso. Speriamo non inventino qualche legge per Natale, mi dice massimo 6 persone al cenno di Natale, ma per cazzo stiamo andando a finire? Massimo 6 persone, bisogna avere massimo 6 persone. Se da qui a Natale non abbassano i contagi, si chiude, quindi non puoi uscire manco in casa. Guarda, stamattina sto parlando con un amico mio di Genova, ci sentiamo tutte le domeniche, mi ha detto che loro hanno fatto diventare zona arancio, adesso non si possono spostare da un comune all'altro, siccome lui è di Genova, la figlia abita attaccata a Genova a pochi chilometri, sono proprio vicinissimi a cosa, ma cacchio si chiama quel posto, adesso non mi viene, vabbè, comunque a Recco, e c'è nipotino, dice non possiamo vedere i miei nipotini adesso, chissà per quanto, e c'è il rischio che magari anche per Natale. E abiterà lì a Rappallo, dove abita? Sarà lì a Genova, come si chiama? Levante, Revice Levante, Ponente. No, vabbè, tu dai, sono Sesti Levante, Sesti Ponente, no, è a Recco è come per dire San Giovanni di Sassari, e la periferia è ferma di Genova, però è un altro comune, anche se sono attaccati, cioè è tutta un'unica cosa, però è un altro comune, se tu ti sposti di 500 metri da Recco a Genova, sei già a Genova, e cacchio sei già un altro comune, è come dire sono Sorsino, e non ti puoi spostare. E la stessa cosa faranno qua, non ci possiamo spostare da Sassari a Porto Torres, da Sassari a Sorso e così via. Se non cambia robe, devono restringere, cioè questa cosa deve sparire, deve abbassare. Non si può stare così, capo, cioè non c'è economia, non c'è niente. Siamo tutti al pascolo bravo, non si capisce un cazzo, cioè a me mi si stanno anche girando le balle, capito? A chi lo dici, dai. Stanno bene quelli che hanno lo stipendio fisso, il problema sono quelli che hanno le piccole attività, i ristoratori, i bar, tutta quella gente lì, le palette, di cosa cacchio vivono? C'era questo qua, mi stava raccontando un amico suo che c'ha un bar a Genova, centrale, che lavorava un be, ci sono andato, Giampaolo. Aveva speso 70.000 euro per fare la cucina, per fare anche dei piatti veloci, roba veloce, in arrampati, perché adesso dice è tutto chiuso, non possono fare niente. Non so, è così. Solo da sport, loro sono solo da sport, dice ma chi cacchio viene qua al bar a prenderci un caffè, te lo devi bere a portare via a casa, dice chi ce l'ha proprio spezzato le gambe, ha messo tutti in cassa integrazione dipendenti, mi pare ne abbiamo 7-8 dipendenti, tutti in cassa integrazione, e ridirà chissà quando glieli danno. No, di a me, Roberto, no, di a me, lo sai cosa fa mia figlia, capito? Lo sai, ma il primo lockdown a ti dico cifra, ma abbiamo aperto la tasca di parecchio, capito? Quindi lascia correre. La gente parla bene, capito? Impressionati, a me non me la fotti nulla, anche se ogni mese percepisco i soldi, meglio lavorate di giusto così, non bisogna parlare in questa maniera, perché sfido chiunque, tutti abbiamo figli, capito? C'è chi ha l'attività, c'è chi è dipendente, c'è chi è improprio, e quelli che sono improprio devono soffrire, capito? Devono soffrire, anche se è un fondo, il fondo finisce, non funziona così. No, lo so, lo dire a me già, claro, volevo dire che il come si chiama? Dobbiamo pagare le tasse, domani il 16 c'è l'altro gruzzolo di tasse da pagare, sono ancora quelle rateizzate di marzo e di aprile. Perché se c'è almeno fatto rateizzare, paghi una leggera mora e te l'hai fatto rateizzare. E sono un bel di soldi. E poi adesso aspettiamo come va a finire il discorso dell'IMU, perché quella la botta grossa noi la prendiamo con l'IMU. Io lo so. So tutto perfettamente, perché tutte le cose devi seguire la figlia, capito? Quindi non ti preoccupare. Però è una cosa che non è che mi piace molto, ma lui dice, ma non si parla così. Si può stare bene, ma si può stare anche male, perché quando i fondi finiscono e non c'è economia, non c'è giro di denaro, allora devi aprire la busciacca. E allora come ti ha... a diventare un po' garetto nervoso, capito? Perché i figli sono figli. Se ha bisogno tuo figlio, i tuoi figli non li aiuti, non ho capito. E così facciamo tutti. Però se poi i fondi finiscono e non rientrano, voglio avere la cazzo e tiri fuori i soldi. No, lo so, guarda, uno ha fatto una proposta e sarebbe la logica più di tutti. L'Italia è un paese di morti, nel senso a livello economico, perché ci hanno mangiato tutto i politici, no? Siamo allo sbando come economia. Hanno proposto questo, facciamo una cosa, così vediamo cosa dicono gli impiegati, gli insegnanti, quelli che hanno lo stipendio fisso. Togliamo una percentuale a tutti agli italiani, quelli che hanno lo stipendio fisso, quante? 50 euro, 100 euro, 80 euro, in base allo stipendio al mese. Li togliamo e li diamo a quelli che non stanno lavorando, e se invece si rivoltano loro, perché la logica, se tu devi dare un problema, che c'è un problema nazionale, dobbiamo partecipare tutti, come quando partecipi alle spese sanitarie, alle spese scolastiche, alle spese delle strade, eccetera, tutti partecipiamo, perché nelle nostre tasse sono... se in questo caso c'è un problema nazionale per tutte le attività, ristorazioni, alberghi, eccetera, eccetera, che quelli proprio sono alla fame, togliamoci tutti quanti un 1%, 2% dello stipendio, a dire cosa annessi, a nemmeno di rivolta nazionale, perché quelli che parlano sono quelli che hanno lo stipendio fisso, che lavorano da casa. Io ti ripeto, ho due sorelle insegnate, loro lo stipendio ce l'hanno fisso, anche se non trovano, ce l'hanno sempre. Però c'è gente che loro, cioè voi siete evasori, voi qua, voi là, voi quello, voi quell'altro, eccetera. E chi mantiene l'Italia non si rendono conto, sono gli artigiani e i commercianti, non hanno ancora compreso. E senza quella roba lì, tutto l'indotto, perché poi c'è del carrozziere, c'è il meccanico, dal meccanico c'è l'elettrauto, c'è l'elettricista, c'è chi, dove chiedi l'altro, muratore, è tutto un indotto collegato. Mica l'insegnante c'ha un indotto, no? O un impiegato di banca. L'indotto di Armandolia va, non perché c'è il bacio degli insegnanti, capito? No. E così, se sono famiglie a casa pagati. Lascia perdere, vabbè, non parliamo di quel fatto, ma non va neanche bene, ti ripeto, che tutti dicano queste e queste cose, perché quando c'è un danno economico le piangono tutti, capito? Anche se uno ha lavorato per 50 anni e percepisce la pensione, può esserci sempre un danno economico, tutto qua, comunque. Io spero che vada bene, per il momento va così, dalle 6 alle 6, mia figlia sta facendo, con lo stacco di pranzo, capito, però si stanno salvando, poi vediamo come va a finire, speriamo che non ci sia la chiusura totale, perché la chiusura totale vuol dire veramente non riprenderci più, perché se adesso ti stai riprendendo, stai arrancando, cercando di tappare, di sopravvivere, un'altra chiusura per i commercianti è proprio il blackout totale. famiglia, non so, poi quelli che hanno investito, tipo tua figlia che è appena aperto, che sta cercando di rilanciare tutto, di farci un futuro, cacchio. Già lo so, vabbè, cambiamo argomento. Prima cosa, curiosità, il 711 quante volte tira fuori il V? 25 watt, vabbè, massimo 30. Quella mi sembra che era 27-28. Ma sono così naturali? Io pensavo ne avesse qualcuno in più. No, no, no, sono naturali, sono naturali. 711, 811 sono anche 25 watt. Anzi, aspetta, mi sembra che 25 watt sia l'811 e il 711 35 watt, non mi ricordo. Comunque qui non va più di quello, non si può modificare, non si può aumentare, non si può fare niente su quelle due radio, nulla, nulla, nulla. No, no, a livello di curiosità, mentre il 700 quanti ne va? 700 è 10 watt, come il 780. Ah, 10 watt, che sono belli grossi queste radio, sono quanto un 440, il 700 c'ha 25 watt, io pensavo 50, perché adesso vedo quei veicolari che hanno 50 watt in VHF, quelli piccolini, cacchio. Lo so, perché il mio, però è uscita dopo. Quando sono uscite quelle radio, non so se ti ricordi, la legge per i radioamatori era da 10 watt, capito? 10 watt in V e in U e 500 watt in HF. Poi è cambiata la legge e hanno aperto sino a 1 kW per quanto riguarda le HF e sino a 50 watt per le V e per le U. Ah, le HF hanno aumentato la potenza, non è più 500? No, no, 1 kW. Cazzo, è tanto, quindi 1 kW. Io, beh, chi lo rispetta? Chi lo rispetta, ma gli amplificatori, anche quello che ho io è sempre più di un kilowatt, non è che, capito, è sempre più di un kilowatt, ma ci sono amplificatori che già ben conosci, gente che li usa, che ne ha, chi ne ha 3, chi ne ha 4, chi ne ha 5 kilowatt. Ma io ho sentito c'è gente che c'ha anche un kilowatt e mezzo in V qua a Sassari. Sì, ce l'avevo anch'io l'amplificatore in V, ce l'ho ancora in V della Micro 7 che c'ha 300 watt in V, no, cioè traietto, però si usa quando sembra la laterale e così. Poi ne ho avuto uno anche da 500 watt, capito? Lo so, lo so, ma ce l'hanno tutti, cosa c'è? Tra in VHF quando hai le direttive è chiaro che ti devi invertire, in propagazione apri e dai gas, però non è che serva. Serva tanto, vai, è più bello in HF quando c'è lo skip bello, bello caldo, allora c'è propagazione e dai gas, è bello. E infatti stavo dicendo, tanto in linea ottica, solo se c'è propagazione può servire a avere potenza. Ormai ci sono i punti ripetitori che copri tutta l'Italia, non è così? No. Pochi ce ne sono ancora in funzione, sono andati tutti a farsi fottere, però anche quando sei in diretta non c'è bisogno, perlomeno io non ho bisogno di avere molti watt, io in VHF ho 100 watt, ma me li dà la radio 275H e c'ha 100 watt, in VHF ho 100 watt lo stesso, se poi mi serve più potenza, non faccio altro che agganciare l'amplificatore della Micro 7, ce l'ho sempre dentro l'armadio, l'avevo comprato da Vannino, funziona sempre bene, quindi però non avendo più le direttive di ottobre, le direttive di V&U, quindi non te ne fa niente di usare quella potenza lì in diretta sui ponti bastano 10 watt e li stai citando, sono punti vicini, capito? Ce l'abbiamo a Monterrase, ce l'abbiamo a Itteri, ce l'abbiamo a Fiume Santo, che cosa siamo a vedere? 10 con l'antenna in gomma io. E cosa? L'820 quanto c'ha di potenza? L'820? L'820 o il 780? Quello famoso, quello in riparazione, mi hai capito? No, no, beh, quello c'ha 45 watt in V e 35 in U. Ho capito. Quello è di ultima generazione, diciamo, là, è già più avanzato rispetto al 700. 700 e 780 sono già vintage. Quello era uscito prima del 910H, capito? Perché prima hanno fatto i due gemellini separati, 275H, 475H, poi hanno fatto l'820H che è V&U, tutto unico, poi hanno fatto il nuovo che è il 910H. Ma Ma quello, una domanda, perché non ho capito, quello c'ha due ingressi di antenna, uno per le V e uno per le U. Se tu, come si chiama, schiacci l'antenna, allora io sono legata, diciamo, l'antenna delle V, e schiaccio ed esce il segnale. Se lo metto in U, che non c'è l'antenna collegata, c'è una protezione che si blocca e non ti fa uscire, o sotto l'antenna delle V? Sono due cose separate. Lì dentro ci sono due separazioni, non so se te l'ha spiegato che te la sta controllando. Mi dispiace tantissimo perché è successo a me, io con la radio l'ho presa, vabbè, da una persona affidata che ha visto c'ha scatola, c'ha tutto e niente. Sicuramente le è già successo e magari l'ha fatta riparare e poi è rimasta così. La riparazione era andata a buon fine perché io l'ho usata per un pochino, stavo parlando, ma ho detto non stai uscendo dal radio, vabbè, sarà il microfono, cambio, metto il microfono normale, non stai uscendo dal radio, e aspetta, allora qua c'è qualche problema, vabbè, non la uso in U, perché in U che praticamente non andava di radio, me l'ho messa in V e in U mi ho messo un'altra radio, il 780, praticamente, facevo due radio anziché una, e l'ho usata tranquillamente, l'ho già in V con l'SM20. Una mattina sono andato a accenderla, proprio così, non ho fatto neanche temporale, niente, perché poi staccavo tutto. Sono andato a accenderla e ero sull'R7 Alfa, da fondo scala mi arrivava a 5. Che è successo qua? Questi spezzoni mi hanno rotto le balle dentro di me. Niente, cambio, c'avevo due duplexer, ho invertito, niente da fare, sempre 5. Praticamente è diventato sordo, si è attenuato di più di 20 dB. Ma così senza far niente. Quindi suppongo che la riparazione che hanno fatto, perché mi è confermato appunto che c'è stata la riparazione lì, evidentemente non è stata fatta bene. Perché mi è successo a me mentre la stavo usando, capito? Non che non, quando l'ho comprata non andava bene, mi è successo proprio a me. Ok, ti stavo dicendo un'altra cosa, di radio, di del 700, no vabbè, di a parità di coso, di come si chiama, il microfono, nel 711 non si può usare il 60. Che non si può usare? Provo a usarlo proprio, c'è lo stesso attacco. Io avevo due MC60 su 711 e 811, poi li ho venduti, poi un altro, quello io l'ho avuto come scambio da un'altra radio, capito? Da un'altra radio l'ho avuto quello io, quello lì praticamente era di uno di Porto Torres, capito? E l'ha comprato pensando fosse un 140, HF, si è accorto che era VHF, mi ha telefonato e mi ha detto se mi poteva interessare, ha detto vabbè vieni, la proviamo, tanto io ho le antenne, l'ho provata, era perfetta, nuovissima, in buonissime condizioni, ho detto cosa vuoi, non so dove voglio quello, si è portato via l'amplificatore che avevo, quello grande della 27, si era portato via quello lì, capito? E più gli avevo dato, non mi ricordo, il carnet più 3, ma l'ho voluto, quindi insomma, uno scambio così, io l'avevo messo da parte, vabbè, non lo usavo perché c'avevo già il 275H, il 475H, quindi no, poi c'avevo il 780, ne avevo di V1, quindi no, non è che lo usavo. Mentre il 700, il 60 non si può mettere, dovresti fare modificare l'attacco. Sì, il 700 è attacco a 4, il 700 ci può mettere un MB più 4, un MB più 5, un MB più 3, qualsiasi microfono a tavolo con l'attacco a 4 del baracchino. Alimentato naturalmente. Con la batteria, sì. Infatti me ne sono accorto, non avevo mai visto l'attacco, che attacchi c'aveva, stavo guardando l'altro giorno e ho detto no, c'ha 4 attacchi e ci avete messo un microfono di un superstar, c'è scritto qua. Sì, c'è un microfono così, l'ho preso, quello era di Antonio, quello di Antonio me l'aveva dato, quello lì, capito, me l'aveva dato Antonio. Sì, il microfono è sempre quello lì, sempre quello c'era, normale, il microfono normale, non è originale ma è normale. Però se ci metti, tu c'hai il canale più 3, c'hai un MB più 5, un MB più 4, funziona bene, mi sembra che con l'attacco sia un 48 o proprio supercar, una cosa del genere. Io non ho mai provato più, solo per curiosità un giorno facciamo una prova in trasmissione per vedere se esce. Esce anche bene. C'è una bellissima operazione con la radio. Ascolta, novità invece sull'820? No, vabbè, non mi ha mandato il messaggio quando è avanti ieri, se lo sta studiando, sta aspettando un pezzo, un transistor, però mi ha detto che tardava perché arriva dalla Cina questo componente. Speriamo che sia solo quello il problema. Per quanto riguarda la parte attenuata, quindi le VHF o le U? Penso per la parte attenuata, cos'era? L'attenuata erano le U, mi sembra, così. No, le V era diventata sorda, in UHF perfetta, erogava anche la potenza, appunto perché dall'assorbimento me ne accorgevo, ma anche in V erogava la potenza, perché era in V usciva del radio, perché io in cuffie ho provato e mi sentivo, solo che era attenuato, mentre in UHF non usciva del radio, di modulazione, capito? Quindi penso che sia quello che fa parte della scheda audio sicuramente. Sì, ma un'altra cosa, adesso me lo sto guardando il 700, quello vecchio, cazzo, queste funzioni, band, a cosa serve band? Band? Non c'è scritto, cosa c'è, M, USB, LSB? No, forse divide il 145 e il 144, esatto, dell'accendo, scusa. Ah, sì, perché c'è lo sfruttamento, perché quello va da 144 a 146. E poi drive, cioè 0500 e 1000, cosa cazzo serve quello? Ah, boh, vabbè, ragazzinamento mio, che c'è anche qui, non ho toccato mai, boh, il drive, cosa ne so, boh, se non è per chiarificare la modulazione in banda laterale, boh. Poi c'è anche il canale, ho visto, c'è la memoria, questo non l'ho mai provato, me lo ce l'ho qua acceso, collegato all'antenna, però non l'ho mai provato. All'epoca sicuramente era un apparecchio di qualità, cos'è, anni 70, sarà Ghizzo. Sì, ma mi sono in buonissime condizioni. Va bene, e ne avrei di quelli. Mi sono arrivato ad averne 7-8 di tra V e U basi, 7-8. Mi sono tenuto poi 7-80, poi ho fatto a te che tu sei collezionista, a te poi avete in dubbio. Mi ho tenuto 7-80, 2-7-5, il 4-7-5 l'ho lavorato perché avevo comprato 910H, che poi disintegrato il giorno che è entrato il fulmine che mi ha bruciato il millone, e quindi non l'ho manco riparato, l'ho venduto così a pezzi di ricambio. E avevo preso un bel colpo, quando era caduto il fulmine con la cabina elettrica, mi avevo bruciato un bel elettrodomestici, te l'ho detto, poi mi avevo bruciato alimentatori, computer, l'FT1000, il millone, il 910H che era attaccato, era anche acceso. Mi avevo bruciato un bel colpo, un bel rame mi aveva fatto. Già lo so, senza il fulmine, senza che ti entri, senza che in casa ti brucia il tutto, ti scioglie l'impianto elettrico, anche se ti cade vicino fa danno. No, qua ha fatto danno un po' a tutto il condominio, capito? Infatti c'è stato un rimborso da parte dell'Ener perché era colpa della cabina elettrica. Secondo voi non lo so, ma una percentuale del 50%. E cosa? Il 757 prima l'hai mai avuto l'AE della IAESU? Cosa Roberto? Il 757 della IAESU mai avuto l'AE? L'ho avuto tutti e tre io, forse non il primo a Sassari, l'ho comprato da Mario Notari, me l'aveva ordinato lui, ho iniziato col 757 normale, poi ho preso il 757 GX e poi ho preso il 757 GX2. Vabbè, come puoi leccare qualsiasi tipo di radio, io da quando ho messo piede qua nel 1986 io ho usato tutte le radio immaginabili, della serie Kenwood e tutte, anche quelle vintage tipo della serie 8, l'820, l'830, il 910, 920, 930, 940, tutte, dalla serie 1Mi, dalla serie 100, il 120, 130, 140, tutte. Non lo so, no, io quello che ho è il GX2 dall'altro, però quello sistemato c'ha dei problemi quello lì, e in AM quello bene va. Sì, ma non come Kenwood, non come il Benino, ma non come Kenwood, io usavo l'MD l'MD1B8 e poi avevo preso l'MD1C8 che era leggermente più amplificato. Andava benino, ma non bene. Io ho la foto e tutta la radio che ho avuto, ma non prese da internet, fotografie stampate dal fotografo. Ce le ho tutte in una portafoto, tutte. Senza parlare dello IAESU, il 101 ZD, il 101 normale, il 102, tutta linea completa. Vabbè, ne ho avuto un mare. Da farti vedere, sti porto l'albo delle foto, proprio messe nella scrivania, allora mia figlia era piccolina, c'è anche mia figlia nella foto con la mano sul microfono. Ma no, belle radio, ho avuto il Swan 700, ho avuto tutta la linea completa Unidem, il 2020, 2010, completa, c'ho le foto, c'ho tutte le foto da farti vedere. Che no, 757 dice che ma la laterale funzionava bene, la M27 dice era un po' così. Guarda, io il 757 GX2 alla fine lo usavo con l'Adonis, ok? Adonis e non con la M508 e funzionava molto molto bene. Non era, ti ripeto, a questi livelli, però la modulazione era piacevole. E io, quando ho tempo me lo faccio sistemare un pochettino, questo c'ha qualche problemino, però è in buona condizione, avevo fatto un'operazione con chi sei tu. E in Provetto c'ero ieri mattina, ero a fare commissioni, ho ricevuto un prezzo unico che si cambia, tutto completo, nuovo, dentro la busta, imballato, con il suo pomellone, nuovo, tutto nuovo, forse domani. Allora va via Luca, toglie quella vecchia, al frontale mette quello nuovo, diventa, non nuova, no, di più. E appunto ce l'ha fatto una chiacchierata, così, ma non sono rimasto molto perché ero in fretta, mi sono andato via, capito? Infatti, te l'ho detto, se andavo stamattina andavamo assieme, non c'era problema, però mi ho approfittato ieri perché oggi veramente non lo voglio manco rimuovermi. Eia. Lui c'era un altro di 757 funzionante però. Sì, lui ne aveva preso due, ne erano capitati due, uno funzionante e uno non, capito? Uno non, funzionante al 50%. Come avevo fatto io col 430, io c'avevo il mio che era un po' così, stava iniziando a mancare, avevo preso uno a pezzi di ricambio, mi sono cambiato le schede, me lo sono un po' sistemato. E poi era capitato che si era bruciato gli ultimi due decimali, l'avevo dato a Fabrizio, mi aveva messo il frequenzimetro nuovo, il display nuovo, tutto nuovo, arrivato dagli Stati Uniti. E sta sempre funzionando, mi è qua. No, funziona bene. Funziona, il pomellone del 430 non ha niente a che vedere con quello del 440, il 140 ne è stabile, non si muove di un millimetro, poi è bello incollato. Se tu provi quello del 440 lo tiri, c'ha gioco, capito? Quello del 430 è una cosa allucinante. È costruito in un modo diverso, diciamo più coso, più affidabile. Come si chiama? Questo che sta usando adesso, uso il 14 o che cos'è? Sì, sempre 140, non sono più 440, roba, te l'ho detto, sono tre balle, no? Mi sono rotto le balle, ho trovato un'occasione e l'ho fatto, capito? No, basta, ne ho avuto 8 con quello che avevo, 8. Alla fine mi sono fatto tutta la linea del 140, cioè il 140, il PS50, la colonnina, ho fatto anche il PS50, c'era un problema di voltaggio, mi dava 19 ampere, e c'era una cosa da rivedere, me l'hanno messo a posto e c'ho la linea. Sto cercando la T250, ce la trovo, anche da pagare a prezzo pieno, me ne frega niente, sta controllando Luca sempre, ma non la trovo manco a misericordia, l'accordatore automatico di linea, capito? Ma tu c'avevi la T230? No, ce l'ho, ma non è di linea del 140, quella è di linea del 930, fa linea anche con il 940, l'altezza è quella. Ma no, io voglio la T250, se lo trovo lo compro, anche a prezzo pieno, almeno fotti nulla, però sta benito, se me lo arrivava, a darle anche più soldi, non me ne frega niente, quello che l'aveva pagato lui, ma no, non me lo va perché se lo vuole tenere. Ma cos'è, automatico? Sì, di linea automatico, allora, semi-automatico, favoloso, sino a 200 watt, bellissimo. Anche la, come la T230, favoloso, metro watt, metro accordatore automatico e commutatore d'antenna. Se qualcuno vuole fare scambio invece il coso del 680, gli do lo speaker, lui mi dà lo speaker del 440. Io ne ho una sola, ne avevo due e l'avevo data. L'avevo data, capite? Se no te l'avevo data, vabbè, cazzo, me la faccio, non mi interessa niente. Ma già ci sono le colonnine del 440, però ricordi che devi prendere le CP430, che è tutta quella grigia, perché quella del 450 c'ha il frontalino che è nero. Io infatti c'ho quella, scusa, del 450, volevo dire, che è nera. Vabbè, teoricamente si può beneficiare, ma non me ne affrutti nulla. Mentre quella del 940 è quasi dello stesso colore, ci assomiglia al grigio, anziché grigio un po' più chiaro, quello del 940, l'SP940 è tipo verde militare. Però quella che c'ho io, l'SP23, è nera, è tutta una sagosa, anche se l'altezza è uguale. Quindi tu c'hai quella del 450, stai cercando quella del 440. Se sento a Tino glielo dico, perché Tino c'ha il 450. Se si è tenuto la colonnina, se c'è l'ottoparlante le potrebbe interessare lo scambio a lui, perché così lui c'ha la colonnina del 450 e non quella del 440. Ce l'ha ancora, naturalmente la mia è nuova, mica, già l'hai vista, non è graffiata, non è bussamari. Per prendere una cosa vecchia e graffiata mi tengo questa. Tino è come me, è una persona che tiene bene le cose, è sempre ordinato, pulito, quindi. Quando lo sento glielo dico. Se c'è quella, se c'è la CP430, tu c'hai la CP23, lui fa linea col 450 e tu fa linea col 440. Quando lo sento glielo dico. Magari se fa lo scambio, ma no, per lui non le cambia niente, perché anzi, meglio, c'è la colonia sua, della sua radio, capito? Infatti un giorno per Mario deve rivenderla, gli dai la linea completa. Quella no, ma quella del 940 è micidiale, c'ha una qualità di ascolto, poi c'ha i filtri alti, bassi, e c'ha due filtri alti e anche i bassi, c'ha, ma funziona, puoi attaccare due apparecchi perché c'ha A e B, io infatti attacco due cose, ma c'ha una qualità, poi mi la sto usando adesso quella del 940, la colonnina, a parte che è il doppio, c'ha la spina per le cuffie pura. Io avevo tutta la linea 940, tutta la linea 940, quando l'ho veduta mi è rimasto la... l'autoparlante che l'ho dato a te e la T230 che ce l'ho ancora io, capito? Avevo tutta la linea completa, anche se l'accordatore esterno io lo usavo solo come strumento, come rosso, metro watt, metro commutatore d'antenna, però in linea 940, c'avevo tutta la linea completa, c'è la foto anche, molto bella la linea completa 940, mancava solo l'oscilloscopio che purtroppo non ho mai trovato, ma non mi sono mai impegnato a trovarlo, non mi interessava. Molto bella, quella colonnina c'ha una bella recezione, come c'è una bellissima recezione all'SP8 della IAESA, sono tutti con i filtri quelle, capite? Sono colonnine che portano a barca, io ho quella del 920 che me l'aveva comprata Marco in fiera, certo, quando me l'ha portata mi sono spaventato, 180 euro costava. No, lo so, ma è portata, con la 940 non la paghi meno di 100-120 euro, ma anche usata, se poi la compri nuova non lo so quanto, vabbè, non si troverà più, però se la vedi ne balla un po' di là. L'oscilloscopio ce n'era uno, lo stavano vendendo 150 euro, quello della linea del 940, bellissimo, Marco ce l'ha l'oscilloscopio, penso che ce l'abbia anche Walter, non lo so, Marco ce l'ha sicuro. Penso di sì, Marco aveva una bella linea del Kenwood, tutta completa. Sì, molto bella quella linea. Sono cose rare, vabbè, che poi quando ce li hai te le tieni molto strette, capito? Te le tieni molto strette. Io ti ripeto tutte le foto a farti vedere, le linee complete che ho avuto, anche quella del 101 e del 102. Favolosa, quella 101 è favolosa, il 101 è grande quanto il 940, qui c'è il VFO esterno, la colonia esterna e l'oscilloscopio, ma è una cosa favolosa, favolosa. I pomelli sono tutti cromati, guarda, per me è una delle migliori radio vintage che ha fatto la IAES, bellissima veramente. Il 101 sta dicendo? Sì, il 101. 101 e anche il 102, ma anche la linea 1 ed era bellissima, c'è tutta la foto, ma adesso guardavo qua perché mi sono fatto poi la bacchetta e gli ho presi al muro, capito? Ce li ho tutte, e vabbè, comunque, insomma, di tutti gli anni che ci sono, ho sempre avuto bella roba. Non voglio tornare indietro, perché tutti i soldi che ho buttato Dio, soddisfazioni che poi vanno poi a finire, a mancare, perché no, oggi come oggi non vale più la pena con la tecnologia che c'è, cosa devono recuperare la radio. Ma poi verranno soppiantate le radio, adesso tutto col computer si fa, con una scatoletta fai tutto, trasmettitore e ricevitore, poi se ti vuoi mettere il lineare te l'attacchi, e con una scatoletta di sigarette riesci a fare le cose che prima ci voleva un armadio di apparecchi. Se tu consideri quando è uscito il TL922, ti porto da Mario, se lo conosci chiamo, e dico, vabbè, ma quello qua è 4,5 milioni, 4,5 milioni, cazzo, minchia. Quando mi guardo una fotografia mi metto a piangere, cazzo, 4,5 milioni non amplificatore. Allora, adesso non va un cazzo, cosa vale? Adesso un TL922 lo trovi a 800, 900 euro, 1000 euro, non di più. Sì, sono purtroppo così, come i televisori, quelli che spendevano un po' di là, i vecchi televisori, poi sono usciti con l'LCD, adesso te li danno a 100 euro, da 100 euro in su un 32 pollici trovi, e prima cacca lo pagavi 1200 euro un televisore LCD. Lo so, io vabbè, in quegli anni, negli anni 90 guadagnavo una barca di soldi, perché ero la sera da Cagliari, ero trasferita a Paglia Globale, prendevo una barca di soldi, stipendi da 3.500 al mese al mese, quindi mi potevo permettere di buttare via anche qualche quattrino, adesso non si può fare più, ma nel modo più assoluto, ho detto basta, boh, finito, non è una cosa fattibile, perché non si può più fare, la vita è cambiata, i soldi sono meno, l'euro ce ne ha tagliato le gambe, quindi se mi ricordo, cazzo, ogni anno cambiavo macchina, allora per gli esami ci rimane quella. E quando ti ho conosciuto io c'avevi l'Audi, la Station Wagon, cos'era, la A4 o A6? No, era la 4, la trazione integrale. Grande macchina quella, poi ti ho conosciuto con la Volvo, poi con la Smart, poi sei diventato povero con la 600, però la tocca quella macchina. La 600 l'ho presa a prendere la Volvo, per non rovinarmi, perché c'era una strada bianca dove andavo io, e quindi l'ho presa per quello, per città, eccetera. E ma tu no, vabbè, forse non ci conoscevamo, non lo so, ma avevo anche il paiero, il 2008, avuto bianco, quando ero a Perfuas, perché salivo molto spesso a Tempio, quindi c'era neve, avevo il paiero grande, 2008, turbo intercooler, capito? Avevo anche quella. E infatti l'Audi l'avevo presa a trazione integrale per quello lì, perché dal periodo mi sembra che era Perfuas. E lì su a Proaghe trovavamo sempre neve ed inverno pieno, e soprattutto quando rientravo, perché facevo i turni, facevo dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, dalle 10 alle 6 non lo facevo quasi mai, lo facevo 6-2, 2-10 a Perfuas, e quindi a volte lì in quella piana lì trovavo neve, perciò avevo bisogno di una macchina che insomma mi consentisse la stabilità e la sicurezza. Adesso l'Audi è una bella macchina, stavo fatto buscare, ti ricordi, poi cerchi in Lega di Antonello, il cugino della moglie di Danilo, lui la stava demolendo, vendendo, mi ammetto, lui c'aveva l'Audi TT o cosa cacchio era, non mi ricordo, GT era, non GT, te l'avevo buscato io e cerchi, avevamo scambiato le ruote, ti ricordi? Sì, infatti, sì, avevo messo quelle che erano più belle di quelle che c'erano, i cerchi, sì, erano venuti, gambe levate. Grabbe le macchine, e io avevo avuto, anche il Volvo, avevo 40, era bello, dopo la macchina, come l'ho venduta un maresciallo dell'aeronautica a Tempio, quando ero su a Tempio a Piscinaccia, cazzo, una volta mi voleva, me ne mangiava la testa, sempre mi ricordo, ma togli, ma questa macchina cammina nella strada, perché non cammina? Oh, ma perché c'ha sempre le ruote lucide, sempre lucida, sempre... cosa vuoi che le dica? Strada bianca di certo non è fa, su quella non ci piove, però già cammina. Sì, ma quando piove la macchina si sposta, e meglio non la uso quando piove. Ti sei abbassato di colpo. Di nuovo. Cosa è successo? Questo come l'altra volta. Ti sei abbassato un po' di segnale, da 9,60 c'è 9,30. Ma l'alimentatore non sarà lo fermo alimentatore qua. Se è basso mi disegnare, un bel basso. Che alimentatore ti ha usato? Ma che di-switching sempre, mamma mia. Muovi il coso della potenza, appena appena, ave mare c'è qualche granellino di polvere. Ma l'altra volta era un connettore, un cavo, uno spezzone. Adesso c'è 9,40, sei salito, guarda che tocca. C'è qualche fascio contatto, qualche... Sì, come te l'ha fatto tu, ti sei abbassato da 9,60 a 9,30. Adesso c'è 9,40, buh. Ma quanti volte ti stai rogando? Pochi volte sto andando. La dispezione che male c'è qualche cosa, boh. Secondo me deve prima di tutto l'alimentatore. Invece guardo, fammi controllare Roberto, se mi abbuccio qualcosa. Vabbè, tanto io devo andare via, dai, controllatelo bene, mi raccomando, cioè che si faccia le live. Ci sentiamo con calma, ciao qua, ciao ciao. Ciao, ciao Roberto. Oh Roberto, ci sei? Roberto. Ma ci sei Roberto?